24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano lo scontro ormai aperto tra Italia e Francia sulla crisi immigrazione. Roma ufficializza i permessi di soggiorno temporanei che consentirebbero a 20.000 nuovi immigrati fuggiti dal Nord Africa di circolare nello spazio Schengen, ma la Francia sigilla le frontiere mentre Bruxelles non prende posizione. Nella pagina economica parliamo del rialzo dei tassi della BCE insieme alla richiesta di aiuto europeo da parte del Portogallo. E infine l'europolemica arbitrale del tecnico italiano Carlo Ancelotti sulle sviste in Chelsea-Manchester United di Champions League. In apertura subito, come dicevamo, lo scontro diplomatico tra Roma e Parigi sull'immigrazione. Sentiamo. Parigi proprio non ci sta, non subiremo un'ondata di immigrati dall'Italia, tuona il ministro dell'interno francese Guillon, e dunque di fronte ai permessi di soggiorno temporanei che per l'Italia dovrebbero permettere agli immigrati di circolare in tutta l'area Schengen, la Francia alza i muri e se proprio non può chiudere le frontiere fissa una serie di paletti che di fatto rendono quasi impossibile l'ingresso. Non potrà bastare dunque il nulla osta italiano, per entrare occorreranno 5 condizioni racchiuse in una circolare diramata alle prefetture francesi, tra queste disporre di risorse sufficienti, essere muniti di un titolo di viaggio e di un documento d'identità valido. In caso contrario scatta il respingimento in Italia. Irritato Maroni, la Francia ha un atteggiamento ostile, sbagliato farci la guerra. Per Frattini invece è una questione europea e la russa minimizza. La Francia è un paese amico col quale bisognerà sicuramente a trovare posizioni e linee di intesa. Intanto Maroni lunedì a Bruxelles chiederà alla Commissione europea di attivare la direttiva sulla protezione temporanea dei rifugiati, mentre domani vedrà lo stesso Guillon. Ma gli occhi sono puntati soprattutto sull'atteso vertice tra Sarkozy e Berlusconi del 26 aprile a Roma. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nel servizio abbiamo sentito la contromossa francese alla decisione italiana con la linea dura scelta da Parigi. Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore nella capitale transalpina, ci spiega meglio la posizione del governo Fillon. Dal punto di vista concreto, tecnico, diciamo, non cambia molto, cioè nel senso che la circolare che ha emanato il Ministero dell'Interno nella notte, indirizzata appunto ai prefetti e alle autorità di polizia, si limita a ricordare norme che esistono già, cioè non è che vengono aggiunte delle norme particolari, ma certo l'atteggiamento, diciamo, politico e quindi il messaggio che viene trasferito alle autorità sul territorio è di esercitare dei controlli molto più capillari e molto più attenti e molto più rigidi, in modo tale da evitare che ci siano degli ingressi non voluti e non desiderati. Cioè, è come, vuol dire banalmente, è come quando, non so, vi ricordate a suo tempo gli uomini radar facevano il cosiddetto sciopero bianco, cioè applicavano in modo estremamente pignolo e rigoroso le normative. Gli aerei praticamente non partivano più. L'obiettivo è evidente, come ha detto chiaramente Guillon, non entreranno. Ma come potranno muoversi gli immigrati in Europa? Alessandra Schepisi ha intervistato Carolina Kotova, portavoce della Commissione europea. Io avrei due commenti da fare dal punto di vista della Commissione europea. Innanzitutto il primo commento è che per quanto riguarda i permessi di soggiorno, di residenza, è una competenza nazionale, quindi di singoli stati membri, non quindi non una competenza europea. Secondo commento è che dei permessi di soggiorno, determinati dalle leggi nazionali, sono di differenti tipi, quindi dipende un po' della tipologia di permesso, e di nuovo qua devo ripetere che è una competenza nazionale. E il terzo commento, forse più importante dal punto di vista di politico, siccome viviamo in un'Europa aperta, senza confini interni, perché lo spazio Schengen è uno dei più grandi risultati del processo di integrazione europea, è chiaro che una decisione nazionale di questo tipo avrà un impatto sugli altri paesi, quindi a noi come Commissione ci sembra fondamentale che ci sia un dialogo tra gli Stati membri a qualsiasi momento si intenda di fare, si procedere a delle legalizzazioni o delle decisioni che possono impattare sugli altri, perché c'è una responsabilità comune a trattare questa importante questione. Uno Stato comunque può mettere dei paletti, certo, che di fatto poi rendono possibile l'ingresso. Certo, Certo, è come ho detto una competenza nazionale. Intanto il ministro dell'Interno Roberto Maroni se l'è presa anche con Malta per i soccorsi nel canale di Sicilia. Negli anni passati c'è stata una disputa anche forte sulla necessità di intervento nelle acque da parte delle autorità maltesi e delle autorità italiane. È un problema che rimane aperto, ma in questa occasione voglio davvero elogiare l'intervento pronto delle nostre forze. In questa occasione, come in tante altre occasioni, anche quando non c'è obbligo di intervenire, ma c'è obbligo morale di intervenire per salvare le vite umane, pronto e immediato è stato l'intervento delle unità di soccorso italiane. Collegata all'emergenza immigrazione pure la crisi libica. L'Unione Europea ha lanciato un appello ai collaboratori di Gheddafi perché abbandonino il colonnello e il suo regime repressivo, così come già fatto da alcuni ex ministri, tra cui il responsabile degli esteri Moussa Koussa. L'appello, riferiscono fonti diplomatiche, è contenuto nella bozza delle conclusioni del Consiglio Esteri dell'Unione Europea che si tiene martedì a Lussemburgo. Abbiamo discusso e stiamo lavorando sull'ipotesi dell'esilio del Rais e dei suoi familiari, così il ministro degli esteri italiano Franco Frattini nel corso di una conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato americano Hillary Clinton a Washington. Creare un gruppo di lavoro comune per pensare all'institution building. La Libia non ha una costituzione, dobbiamo pensare ad un'assemblea costituzionale libica sotto la guida dell'opposizione, ma che porti poi a non dividere la Libia in due parti, perché questo è qualcosa che nessuno vuole. E ora la pagina economica. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi all'1,25% dal minimo storico dell'1%. È la prima stretta monetaria varata dal Consiglio Direttivo da metà 2008 ed era ampiamente prevista dal mercato. Il governatore della BCE, Jean-Claude Trichet. Based on its regular economic and monetary analysis. In seguito all'analisi della situazione economica, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare i tassi di interesse dello 0,25%, dopo averli lasciati invariati per 2 anni ai minimi storici. Con la decisione unanime presa oggi di alzare il costo del denaro, la Banca Centrale Europea non ha contestualmente deciso che si tratta del primo di una serie di aumenti dei tassi. La scelta intrapresa oggi è volta a garantire e assicurare la stabilità dei prezzi a medio termine. La manovra odierna contribuirà a tenere sotto controllo le generali attese di inflazione tra i cittadini. L'Unione Europea, come già avvenuto con gli altri paesi che hanno chiesto aiuto finanziario, sarà solidale anche con il Portogallo. Lo ha detto il portavoce del commissario per gli affari economici Olli Rehn. Quanto all'importo dell'aiuto da destinare a Lisbona, il portavoce ha precisato che al momento non ci sono cifre. Bisognerà discutere con le autorità portoghesi dopo la presentazione della richiesta formale di intervento. E ora la borsa, chiusura in calo per Milano. Il listino milanese, dopo una mattinata senza direzione e un andamento positivo nel pomeriggio, si è indebolito sul finale di seduta, complice il nuovo terremoto in Giappone. Il FTSE MIBA ha così chiuso a meno 0,37% nel giorno del rialzo dei tassi atteso da parte della BCE. A Piazza Affari gli acquisti hanno premiato ancora Intesa San Paolo, più 1,8% all'indomani della presentazione al mercato dell'operazione di aumento di capitale, notizia già scontata, e del piano industriale. Il netto rialzo Fonsai, più 1,2%, e l'azionista Prema, fin più 12%, che in due sedute hanno guadagnato rispettivamente il 7,4% e il 34% sul possibile ritorno di Groupama nei progetti di riassetto della galassia. I francesi hanno infatti confermato di aver chiesto all'ISVAP il permesso per salire oltre il 10% di Fonsai. Bene Generali, più 0,8%, in attesa di conoscere il nome del nuovo presidente dopo le dimissioni di Cesare Geronzi. Tra i titoli negativi, Buzzi Unicem ha perso oltre il 2%, risentendo di due fattori. La revisione dell'outlook a negativo da parte di Standard & Poor's e l'allarme sui risultati 2011 lanciato dalla concorrente tedesca Octif, meno 8% a Francoforte. Livia Zancaner da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore. C'è un braccio di ferro tra Roma e Parigi anche dietro le dimissioni in Italia di Cesare Geronzi dal vertice di Generali. Lo spiega Riccardo Sabatini del Sole 24 Ore. Con l'operazione tentata da Groupama in fondiaria SAI, Se fosse andata in porto, Groupama avrebbe aggiunto al suo 5% di quota che detiene in Mediobanca quello di Fonsai, contenuto nella cassaforte di Fonsai, e se si somma a questa percentuale la quota del 2% di Bolloré, vicepresidente peraltro di Generali e grande amico di Geronzi, ecco allora che questo raggruppamento francese sarebbe stato il primo azionista di Mediobanca, la quale controlla anche Generali. E pertanto, in questa chiave di lettura, il raggruppamento francese avrebbe messo le mani, per usare un termine un po' forte, sulla principale compagnia italiana. E ora in Africa, Francia in difficoltà in Costa d'Avorio, dove Parigi sperava in una soluzione alla crisi molto vicina. Gigi Donnelli. La crisi nella Costa d'Avorio, che purtroppo perdura ormai da un decennio, con una grande pausa che si era poi creata appunto lo scorso anno, è eternamente vicina alla fine. Che cosa succede? Ancora una volta continua questo famoso attacco finale delle forze del presidente riconosciuto Ouattara contro il presidente che non lascia il potere nonostante abbia perso le elezioni di novembre, Laurent Gbagbo. Ma poiché l'ordine molto chiaro è stato dato alle truppe di prendere Laurent Gbagbo vivo, Gbagbo sembra non avere nessuna intenzione di cedere. Morale, è arroccato all'interno di un palazzo presidenziale, all'interno del cosiddetto quartiere chic di Abidjan, cioè Cocody, e le ore passano e intanto la città vede, e quello è vero, morire persone, vede una città di oltre 3 milioni di abitanti letteralmente che viene travolta dallo sfinimento, e vede una situazione che per i francesi si dimostra sempre molto difficile da gestire. Insomma, la spinta decisiva che Parigi ha imposto alla vicenda per adesso non ha ancora portato a una soluzione. La speranza è che possa farlo in poche ore. Calcio, le questioni arbitrali non sono prerogativa solo del football italiano. Clamorosa la svista del fischietto spagnolo Mayenco ai danni del Chelsea nel derby inglese di Champions League vinto dal Manchester United 1-0 a Londra. Così Carlo Ancelotti, allenatore dei Blues, sull'arbitraggio e sulle prospettive del suo club in vista del ritorno. Io non lo conoscevo questo arbitro qua, mi ha detto guarda, questo è un buon arbitro, quella pecca che ha che gli manca personalità e coraggio. Per dare un rigore all'ultimo minuto, anche se è così chiaro, ci vuole personalità e coraggio, e probabilmente questa è stata la sua pecca per questa partita. Beh, è ribaltabile, certo che sì, non è facile vincere là. Ci consola il fatto che l'anno scorso, quando dovevamo vincere, abbiamo vinto. Eravamo sotto in campionato, siamo andati là con l'obbligo di vincere e l'abbiamo fatto, e speriamo di riuscirci anche quest'anno. La partita ha dimostrato che qualche problema glielo possiamo creare. E sul fronte degli appuntamenti di oggi vi segnaliamo che il commissario alla giustizia Viviane Reding interverrà alla conferenza sulle strategie dell'integrazione dei Rom. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.